Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Abbiamo Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. I titoli del nostro sommario: fare la nanna, missione possibile? News al femminile. Paola e Chiara, sorelle e amiche per l'Abruzzo. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Lo darò alla Befana che lo tiene una settimana. Lo darò all'uomo nero che lo tiene un mese intero. Ninna nanna ninna oh. Eh sì, oggi parliamo di sonno, così hanno votato le mamme che hanno aderito al nostro invito a diventare protagoniste della nostra puntata. Ogni mese noi siamo al secondo appuntamento, le mamme si parlano alla radio per confrontarsi e raccontare le loro gioie, le loro fatiche, i loro dubbi, le sfide che ogni giorno si trovano ad affrontare. Il tema che abbiamo scelto è la nanna, parleremo del sonno dei lattantini ma anche di quello dei bambini un pochino più grandicelli che ancora non riescono a uscire magari dal lettone di mamma e papà. In studio con me sono tornate a trovarci le mamme, benvenuta a Veronica, ciao Veronica. Ciao, buongiorno a tutti. A Sara. Ciao. E a Yolanda. Buongiorno. Qui in studio, accomodati in questo gineceo, Alberto Pellai. Ciao Alberto, non potevi mancare. Ciao Nicoletta, invado questo spazio delle mamme. Ci farai la parte anche della voce, rappresenterai la voce dei papà. Va bene. E in linea con noi abbiamo il professor Oliviero Bruni, un grande esperto di sonno perché è responsabile del Centro del Sonno per l'età evolutiva all'Università di Roma La Sapienza. Professore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Tra l'altro il professor Bruni è appena tornato dall'America e quindi io so che insomma ci ha regalato la sua presenza cercando di incastrarle tra i vari impegni. Grazie davvero professore. Però prima di dare voce alle vostre domande, 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, i messaggi come sempre al 349 238 6666, voglio un po' attivare la nostra discussione prendendo spunto da alcune domande ricorrenti che abbiamo trovato nei siti e nel blog. Ascoltiamole. Per addormentarlo è meglio tenerlo in braccio o deve stare giù nel suo lettino? È possibile che si svegli per la fame? I bambini piccoli possono avere gli incubi? Il mio bambino non dorme per le colichette e siamo già al quarto mese. Come mai? Perché il mio bambino si sveglia di continuo? Bene, professor Bruni, vengo subito a lei. Queste e molte altre domande costituiscono un vero e proprio tormento per il 30% dei genitori dei bambini in età prescolare, è proprio la fascia di cui ci occuperemo oggi noi. Insomma, un bambino su tre ha problemi con il sonno e direi, lo sa bene, io lo so anche per esperienza diretta, ma mi stavo confrontando con le mamme, che questo problema contagia poi l'intera famiglia. Notte dopo notte la stanchezza si accumula, è difficile recuperare con tutto quello che ne deriva. Professor Bruni, però ogni bambino ha la sua storia, ma ogni fase della vita del bambino ha il suo tipo di sonno. Io direi di partire da qui, che dice? Sì, esattamente, guardi, queste domande le sento praticamente tutti i giorni. Sì. E sono un leitmotiv di tutte le mamme con bambini che non dormono. I bambini, bisogna partire da un concetto fondamentale, che ogni bambino ha un proprio bisogno di sonno. La variabilità interindividuale è molto alta nei primi mesi di vita e nel primo anno di vita, poi tende a normalizzarsi, non so, con l'ingresso nella scuola materna, nell'asilo nido, eccetera, eccetera, ma nella prima parte della vita è estremamente variabile, per cui se abbiamo un bambino che deve dormire 9 ore, 10 ore, anche in epoca molto precoce, è inutile che cerchiamo di dannarci l'anima per farlo dormire più di quello che è la sua esigenza di sonno. Dobbiamo dire che negli ultimi anni, negli ultimi 20-30 anni, tutti noi abbiamo perso almeno una o due ore di sonno, nel senso che il bisogno individuale di sonno si è andato riducendo gradualmente negli ultimi anni. Ma il problema fondamentale dei bambini, appunto, che non dormono o che hanno dei risvegli notturni è legato al fatto, a un fatto molto semplice, cioè che noi cerchiamo di far adattare il bambino in maniera più precoce possibile a dei ritmi che probabilmente non sono i suoi, cioè nel senso i nostri ritmi sociali non combaciano perfettamente con quelli che sono i ritmi di sonno e di veglia del bambino, tanto è vero che questo problema è ovviamente molto più accentuato nelle società occidentali che non in altre società magari meno sviluppate come per esempio in Africa, cioè non c'è questo bisogno di far adattare il bambino subito ad una modalità di ritmo sonnoveglia che è consona a quello che serve poi per i genitori, per un miglior funzionamento sociale dei genitori e di tutta la famiglia. Quindi bisogna partire da questo concetto iniziale, cioè nel senso che noi dobbiamo prima vedere qual è il ritmo di sonno del bambino, non per forza cercare subito di farlo adattare alle nostre esigenze. Io vorrei fare subito un giro di tavolo delle nostre mamme per sapere come è andato, come sta andando. Abbiamo delle mamme che hanno bambini piccoli e un po' meno piccoli, vero Yolanda? Ma partirei subito da Veronica. Due figli. Allora, io ho due figli, una bambina di 15 mesi e un bambino che ha appena compiuto 3 anni. E infatti io al professore e anche alle altre mamme qui presenti, eccetera, avrei una domanda un po' strana da fare, cioè ma non è che il sonno, la capacità di addormentarsi è una cosa innata? Perché io vedo nei miei figli una grossa diversità di comportamento. Con la figlia è sempre stato tutto facile, quasi come se fosse un pacco. Invece con il maschio abbiamo fatto molta più fatica. E quasi quasi mi sembra che tutte le nostre strategie di genitori siano inutili di fronte al carattere fallite di un bambino. Professor Bruni. È così, cioè ogni bambino ha la sua storia, come dicevamo prima, ogni bambino sono bambini che sono più facili ad adattarsi a questi ritmi, cioè hanno più facilità per esempio ad addormentarsi, e bambini che hanno più difficoltà. Allora a questo punto, quando il bambino ha difficoltà ad addormentarsi, inizia un circolo vizioso, nel senso il bambino è un bambino che piange al momento di solito, aumenta l'irritabilità poco prima dell'addormentamento. Sì. Ma questi bambini diventano più nervosi, più irritabili, quindi è più difficile diciamo farli predisporre al sonno, e allora lì comincia tutta una serie di circoli viziosi per cui tutti i genitori cercano tutte le modalità più strane diciamo o più consone per far addormentare il bambino, per cui c'è chi lo culla nella carrozzina, c'è chi lo c'è addirittura chi se lo porta in macchina a fare un giro così si addormentano. Quello lo fanno i papà però quindi qui c'è da differenziare. Intanto, le due cose di solito i papà sono quelli che portano in macchina il bambino per farlo addormentare. Allora chiediamo anche la nostra è una trasmissione, una puntata voluta dalle mamme e scelta, il tema è stato proprio scelto dalle mamme, ma naturalmente invitiamo anche i papà all'ascolto ad intervenire. Come è andato con il sonno del vostro bambino, che cosa fate per addormentarlo, come avete superato i piccoli e grandi problemi di sonno? 800 24 00 24. Alberto, a proposito di papà, tu adesso sei stato qua buono, sei un esperto non solo per la tua professionalità ma anche perché padre di 4 figli, ne hai passato tante ore sì, ad addormentare bambini. Devo dire che per noi è stato molto importante nel primo mese proprio seguire un po' questo consiglio del professor Bruni, cioè capire qual era il ritmo del sonno dei nostri bambini, che non è stato per tutti un ritmo identico, però adattarci il più possibile al loro bisogno di sonno e in qualche modo scoprire proprio col tempo, e 30 giorni sono stati necessari più o meno per tutti, quali erano le loro esigenze in termini di orari, in termini di luogo. Una cosa che ha accomunato tutti i nostri bambini è stato che si sono sempre addormentati con la musica, e ogni bambino ha avuto proprio il suo CD che l'ha accompagnato sia durante la gravidanza che dopo la nascita. E per esempio adesso con i bambini che sono un po' più grandi, una cosa che scopro è che quando parte la musica del loro CD per la nanna, loro proprio si preparano, sentono questa musica e sanno che quasi un po' si adattano. E l'ultima cosa che è valsa per noi almeno è sempre stata quella di dare un'idea di contatto, quindi addormentarli in braccio, cosa che è avvenuta per tutti abbastanza velocemente, poi depositarli nella loro culla, infine nel loro lettino. E quindi volevo chiedere a Sara, anche tu hai seguito il metodo Pellai, addormentate in braccio? Perché c'è chi invece dice, mi sembra che il professor Bruni a questo punto possa dire qual è il metodo più corretto, che il bambino non va mai addormentato in braccio ma va messo sveglio nel lettino. Sara, tu che cosa hai fatto? Io lo addormentavo in braccio ma non ho mai avuto problemi finché era diciamo piccolo e lo allattavo perché era comunque molto disponibile ad addormentarsi. Avevamo trovato anche noi un ritmo di sintonia, di insomma questo primo legame si era instaurato bene, quindi avevamo proceduto con tranquillità. I miei, diciamo così, le difficoltà sono arrivate dopo, quando con i primi passi, le prime scoperte, l'entusiasmo della giornata molto spesso lo coinvolge anche di notte, lo porta a svegliarsi, quindi io non ho tanto il problema dell'addormentarsi perché è sempre stata un'abitudine ben consolidata, ben strutturata, ho più il problema che se si sveglia di notte pronti via. Bene, nel corso della nostra trasmissione parleremo di risvegli notturni, sono veramente... mettono a dura prova la mamma e anche il papà. Ma professor Bruni, facciamo il passo indietro all'addormentamento. Allora sì, guardi, Alberto li passeggiava, insomma, io però con musica di sottofondo, io cantavo come un merlo e se lo sono sentite per anni. E cosa bisogna fare? Guardi, mentre il sonno è una funzione fisiologica, l'addormentamento è un comportamento appreso. Nel senso, io imparo ad addormentarmi in un certo modo, sì, e il bambino fa la stessa cosa. Per cui se il bambino impara ad addormentarsi in un certo modo, deve ripetere la stessa modalità perché non sa addormentarsi in maniera differente. Io mi addormento sul fianco destro, se mi sveglio durante la notte neanche me ne accorgo, mi rimetto sul fianco destro e mi riaddormento sul fianco destro. Quindi ognuno di noi ha una modalità propria per addormentarsi. Il bambino che viene addormentato in braccio, se si sveglia durante la notte, conosce solo quella modalità per riaddormentarsi e quindi chiede la presenza del genitore per riaddormentarsi, cioè vuole essere ripreso in braccio. Se non si sveglia va tutto bene, cioè noi lo addormentiamo in braccio, lui dorme, si addormenta, e non via. Si sveglia e va bene così. Però se si sveglia questo può diventare un problema perché il bambino non sa addormentarsi da solo. Insomma, allora, professor Bruni, insegniamo ai nostri bambini a camminare, poi quando sono più grandi a non toccare le cose pericolose, dobbiamo insegnare ai nostri bambini ad addormentarsi tenendo conto delle loro particolarità, delle loro caratteristiche. Andrei da Vito che ci chiama dalla provincia di Milano. Vito, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho una bambina stupenda di 3 anni. Sì. Di cui 3 anni che questa bambina il sonno non sa neanche cosa vuol dire. Sì. Vabbè che ha anche dei problemi di crescita e qui siamo su un altro livello. Però come addormentare, diciamo, lei o va a letto alle 10 o va a letto alle 11 o a mezzanotte, la sveglia è verso 3:30, 4, poi bisogna tenerli i piedini con le mani oppure le manine e poi niente, o si riaddormenta oppure sta sveglia per tutta la notte. Pratica il suo sonno quotidiano è 4 ore la notte e 1:30 il pomeriggio e basta, con tutto che lei è una bambina molto attiva. Senta Vito, se vedesse le facce delle nostre mamme qua in studio, avevano tutta e erano molto comprese nel ruolo, sì, massima comprensione per Vito. Chiediamo allora ai nostri esperti se possono dare una mano a Vito, se a una bambina di 3 anni, insomma, se non è mai troppo tardi, prima o poi il sonno, bisogna imparare ad addormentarsi. Alberto, dorme nella vostra stanza o dorme nella sua stanza, Vito? No, purtroppo, visto che la bambina, diciamo, è stata molto ospedalizzata perché siamo in ballo con il vario procedimento per la sua crescita e non sappiamo ancora cosa, la bambina ha sempre dormito con la mamma e poi nel lettone. Noi cerchiamo di farla addormentare nel suo lettino, e poi, ma è impossibile. E poi si trasferisce. Alberto, un consiglio, poi sentiamo il professor Bruni che cosa aggiunge. Credo che la storia di ospedalizzazione della bambina, in realtà, che adesso ci ha citato Vito, visto che è stata così lunga, influisca naturalmente su questa sua fatica a stare dentro il sonno, che poi è proprio uno spazio dove il bambino deve in qualche modo imparare a stare da solo, a gestire in isolamento la propria autonomia. Penso che Vito con la sua bambina possiate cominciare proprio anche a discutere una specie di progetto, cioè a fare un contratto insieme, a trovare anche un pupazzo che serva per accompagnarla, una cosa nuova che serva a stare con lei durante la notte anche quando la mamma o il papà non possono stare vicini. Questo è un processo che richiede abituamento, proprio bisogna abituarla all'idea della solitudine e abituarla a stare in un posto che è diverso dalla vostra stanza. Capisco che per voi però in questo momento le sfide sono tante, quindi direi che sarà un percorso lento che va progettato e accompagnato, occorrerà del tempo. Assolutamente da fare in condivisione, la coppia deve essere ben unita in questo proposito. Professor Bruni. Dunque, questo caso, insomma, io credo che il problema della crescita del bambino sia della bambina sia strettamente correlata al problema di sonno. Mm. Nel senso, se noi abbiamo un sonno disturbato, durante la fase di sonno profondo produciamo l'ormone della crescita. Sì. Se il bambino non ha una buona fase di sonno profondo, ha un sonno disturbato, non produce l'ormone della crescita e di conseguenza non ha uno scarso accrescimento ponderale, per cui va valutato, prima va regolarizzato il sonno e poi valutato tutti anche gli altri aspetti relativi al disturbo di accrescimento, che è una cosa estremamente importante a cui i medici in genere non pensano, perché magari se regolarizziamo il sonno risolviamo anche il problema della crescita. Ora, a prescindere, può essere una celiachia o un altro tipo di problema più strettamente medico la causa dello scarso accrescimento della bambina, però va regolarizzato assolutamente il ritmo di sonno della bambina. In questo caso mi sento di consigliare per esempio la melatonina in queste situazioni in cui c'è un disturbo non tanto dell'addormentamento quanto un disturbo della continuità del sonno. Ecco, e tra l'altro la melatonina è un regolarizzatore anche delle secrezioni ormonali, per cui può anche migliorare in generale tutta la situazione di questa bambina. Questo è uno le nostre nonne dicevano dorme e cresce, in effetti ci avevano visto lungo, cioè dietro il riposo notturno è proprio vita, salute per il bambino, per questo anche con grande fatica dobbiamo in qualche modo trovare la strada per aiutarlo a dormire bene. Professore, io tornerei sui vantaggi del sonno. Sappiamo che è fondamentale dormire, ma il bambino deve dormire bene non solo per dare modo alle mamme e al papà di riposarsi, ma proprio per la sua salute. È vero che bambini che non riposano poi bene nei primi anni di vita hanno poi dei disturbi anche nel sonno quando sono grandi, o è un modo di dire? Sì, assolutamente sì. Non c'è solo un problema relativo al sonno che non riesce a stabilizzarsi, per cui questi bambini che non dormono all'inizio poi magari continueranno a dormire male. Solitamente, guardi, dopo i 3 anni di vita, nel momento in cui abbandonano il sonnellino pomeridiano, naturalmente loro tendono a dormire meglio durante la notte. Se uno gli prova a togliere il sonnellino pomeridiano quando ancora non è ora di toglierlo, dormono peggio durante la notte, per cui non conviene assolutamente non farlo dormire di giorno per farlo dormire meglio di notte. È una cosa assolutamente sbagliata da fare. Ma il sonno è importante perché per la crescita, è importante per le funzioni immunitarie, perché se io dormo di più il mio sistema immunitario funziona meglio e la riparazione delle ferite, per esempio, avviene più facilmente, più precocemente in sonno. Ma ultimamente si va scoprendo, specialmente per quanto riguarda i bambini, che il sonno è fondamentale per l'apprendimento, perché io il passaggio dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine lo effettuo esclusivamente durante certe fasi di sonno, per cui se il bambino non dorme bene andrà male anche a scuola, a prescindere dal problema dei disturbi respiratori in sonno, per cui sì, le apnee notturne, certo. Andiamo su un altro campo, ma il bambino che dorme male sarà un bambino iperattivo, sarà un bambino intrattabile, sarà un bambino con difficoltà di socializzazione, un bambino che avrà una serie di problemi che andranno accumulandosi nel tempo. Insomma, i bambini, come si dice, devono fare la nanna. Andiamo a Lecce, ci chiama Alessandro, buongiorno. Buongiorno, io ho un bimbo di 10 mesi, dopo il secondo ne abbiamo uno di 6. Sì. Il primo non ha avuto alcun problema, anzi, diciamo, a volte si fa fatica a svegliarlo. Questo secondo dorme dalle 9 alle 2 di notte e poi si sveglia dorme mezz'ora e sta sveglio 20 minuti. Praticamente non riusciamo a migliorare. Fra l'altro, l'altra cosa che mi sembra che la qualità del rapporto con la madre rispetto al primo figlio vada peggiorando, perché oggettivamente mia moglie non ce la fa più, diciamo, dal punto oltre, diciamo, all'aiuto che gli posso dare io, ma certo. Non riusciamo a migliorare, nel senso che poi dorme stranamente 2 ore durante il mattino. È perché poi è stanco, povernini. Alberto, prima dei mercati, un flash. Dorme con voi o dorme nella cameretta con il fratello? Guardi, abbiamo provato a farlo dormire col fratello, ma con pochi risultati. Adesso dorme con noi per farlo dormire almeno un pochino. E certo, si capitola. Alberto? Io, se non ci sono altri problemi, consiglierei di dover proprio investire in un tempo significativo, può essere una settimana, magari fatelo durante le vacanze, in cui il bambino riceve un'aspettativa chiara da parte di mamma e papà che il suo posto per il sonno è la cameretta dove c'è anche il fratello, dentro al suo lettino. E su questo i papà possono essere molto importanti, perché se il bambino è stato abituato ad addormentarsi attaccandosi al seno della mamma, la percezione che è quando si risveglia vicino il papà, che lo tranquillizza anche se lui piange disperatamente, gli dà l'aspettativa chiara che non potrà continuare ad attaccarsi al seno, ad alimentarsi ogni 20 minuti, e probabilmente pian piano capirà che quello è il suo posto, il suo luogo in cui stare, e la sicurezza del papà diventerà la sicurezza del bambino. Siamo tornati insieme. Oggi parliamo dei bambini e del loro sonno. Parliamo dei bambini molto piccoli, dei lattantini, ma stiamo procedendo negli anni, perché ci sono dei bambini che da piccoli non danno alcun problema, si addormentano nel loro lettino felici e poi improvvisamente qualcosa nel loro sonno cambia e il genitore si trova un po' spiazzato. 800 24 0024, ne parliamo con le nostre mamme blogger, con Alberto Pellegrini Lai e il professor Oliviero Bruni. Adesso però andiamo a sentire un GR tutto al femminile, e le notizie sono state commentate per noi dal professor Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. Allattare al seno, una protezione straordinaria per la salute della mamma. I benefici dell'allattamento per la mamma consistono, secondo questi studi, in una riduzione significativa del rischio di avere più avanti negli anni, in menopausa per esempio, il diabete, l'ipertensione e le malattie del cuore. È un'indagine condotta su un enorme campione di donne, circa 140.000. Perché allattare abbia un effetto protettivo, quello non lo si sa. Per la verità, alcuni esperti sono scettici. Pensano che tra i due fenomeni non ci sia davvero un rapporto di causa ed effetto. Per esempio, le spiegazioni potrebbero essere che le donne che allattano al seno hanno, per esempio, più attenzione alla loro salute di quelle che non allattano. E quindi sono donne che evitano i fattori di rischio, come per esempio il sovrappeso, il fumo, l'alimentazione scorretta, e sono attente all'attività fisica. Fumo e cancro al seno, una relazione ormai provata. In queste settimane un comitato di esperti del Canada e degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto. Questo rapporto dichiara che ci sono oggi nuove prove fornite da studi recenti, fatti con maggiore rigore che in passato, che affermano che esiste un legame tra fumo, anche passivo, e tumore al seno nelle donne prima della menopausa. Questi studi non hanno fornito per adesso nessuna dimostrazione che ci sia invece un rapporto tra tumore che insorge dopo la menopausa al seno e fumo di sigaretta. Allora, un GR dedicato alle donne e anche alle mamme qua. Avete allattato voi? Io no. Tu no? Solo la prima, qualche mese, poi niente. Io sì, a lungo 13 mesi. E tu, Veronica? Io sono la seconda, 7 mesi e mezzo. Ci sono, professor Bruni, c'è una relazione tra allattamento e sonno? Il bambino allattato al seno ha una maggiore facilità a prendere il ritmo del sonno? No, è il contrario. Il bambino allattato al seno ha una maggior difficoltà a prendere il ritmo del sonno, cioè perché solitamente i bambini allattati al seno è più facile che abbiano un'alimentazione a domanda, quindi non strettamente regolata dai ritmi. E di solito, proprio per questo motivo, e poi siccome associano molto più facilmente il seno al sonno, cioè l'alimentazione al sonno, la loro modalità di addormentamento diventa il seno. Allora, questo può comportare a lungo andare il fatto che il bambino sappia addormentarsi solo al seno, e quindi di conseguenza determini un po' quello che poi viene raccontato spesso da molte madri, che riescono a farlo addormentare solo al seno, e quando gli danno il ciuccio o il biberon, questi non lo vogliono più, ovviamente. Da qui infatti l'invito di Alberto, quando parlavi con l'altro ascoltatore, di mettersi il papà di fianco al bambino che cerca magari il seno della sua mamma, per rassicurarlo con la presenza del papà e cercare di rompere un po', sì, riprendo, questa dipendenza tra virgolette. Riprendo anche proprio un concetto che ha fornito il professor Bruni, cioè che l'addormentamento è un comportamento appreso e quindi quando tra i 6 e 9 mesi praticamente termina l'allattamento e i bambini sono pronti per andare a dormire nel loro lettino, devono proprio reimparare un nuovo modo di addormentarsi e occorre tempo, fatica, energia perché questa cosa possa avvenire, perché loro si in qualche modo si ribellano, cercano di stare nella sicurezza di ciò che hanno conosciuto. Ma si ribellano anche, vengo alla nostra mamma Yolanda, quando sono già un pochino più grandicelli. Yolanda, raccontaci la tua storia. Allora, in pratica io ho 3 bambini e devo dire che quando mi dicono ma come hai fatto a farne 3? Io dico sempre ne ho fatti 3 perché hanno sempre dormito. Per cui, perché probabilmente se la prima non avesse dormito da piccola mi sarei subito fermata. Rimaneva figlia unica. Bravissima, invece tutto a posto, tutto perfetto, dormivano tutta la notte, tutto bene. A un certo punto la più grandicella è arrivata intorno ai 5 anni. A me sembra, cioè quello che ricordo io è quando praticamente ha cominciato a vedersi la pancia della mia terza gravidanza, la bambina ha cominciato ad avere dei disturbi del sonno, per cui no, veramente non del sonno, dell'addormentamento, cioè proprio il momento dell'addormentarsi, diciamo così, del distacco per lei ha cominciato a diventare un problema. E devo dire che purtroppo questo problema è peggiorato con gli anni, cioè invece di migliorare, prima ha sempre dormito nella sua cameretta, con i fratelli, tutto quanto, e poi pian piano sempre peggio, finché adesso lei non vuole dormire altro che nel... cioè addormentarsi all'interno della nostra camera. Sì. Professor Bruni, qua abbiamo due situazioni che mi suggeriscono l'esperienza di Yolanda, l'addormentamento e il risveglio notturno. Perché sono due problemi di sonno differenti e soprattutto per dare una mano a Yolanda che ci ha raccontato la sua storia, la bambina inizia a diventare grande, soprattutto questo, tra virgolette, problema, non so se definirlo tale, dura ormai da 4-5 anni. Certo. Si può ancora fare qualcosa? Sì, sì, si può fare tranquillamente qualcosa. Volevo solo puntualizzare due cose, poi magari ci torniamo, ci perdiamo. Cioè, bisogna sempre pensare che ci possa essere un problema di allergia alimentare quando il bambino si sveglia la notte, specialmente se questi risvegli iniziano in concomitanza con lo svezzamento. Sì. Quindi dobbiamo sempre valutare e chiedere al pediatra se per caso il bambino può avere un'allergia a certi alimenti, tra cui per esempio il latte. Questo oppure è importante. Quei bambini che si muovono molto durante la notte, per esempio, possono avere una carenza di ferro, oppure può esserci quella che è in pratica una sindrome delle gambe senza riposo, cosiddetta, ad esordio molto precoce. Inversione mini, diciamo. Inversione mini che è legata molto spesso nel bambino ad una carenza di ferro, per cui queste due situazioni vanno ben tenute presenti. Tornando al discorso della paura dell'addormentamento, io so benissimo, se un bambino viene da me in ambulatorio e ha 6, 8 anni, 10 anni, ha sicuramente questo tipo di problema. È un bambino che ha paura dei ladri, ha paura che i genitori non lo lascino da solo, è un bambino che ha il terrore di addormentarsi perché poi non ritrova nessuno. Quindi inizia a trovare una serie di scuse per poter stare insieme nel letto con i genitori. Questo problema molto frequente è strettamente correlato ad un processo evolutivo, il processo dell'acquisizione del concetto di morte. Nel bambino il concetto di morte viene ad essere acquisito intorno tra i 6 e gli 8 anni. E allora il concetto di morte come punto di non ritorno a quell'età può determinare questo tipo di angoscia, questo tipo di problema che il bambino presenta molto spesso proprio a quell'età. Cioè nel senso, il bambino prima dei 6-8 anni, se il nonno muore, lui sa che sta in cielo ma che può tornare. Sì. Non ha il concetto ben chiaro che il nonno non torna più. Dopo i 6-8 anni inizia a verificarsi questo processo, cioè della morte come punto di non ritorno. E allora, legato a questa fase evolutiva, si verificano tutta questa serie di problemi che sono collegati appunto alle paure all'addormentamento. Si fa semplicemente un rinforzo positivo, si può dare un farmaco che facilita l'addormentamento, cioè nel momento in cui il bambino ha la percezione che lui è in grado di riaddormentarsi da solo senza sforzo, allora il problema scompare, svanisce come d'incanto. Possiamo fare il rinforzo positivo, cioè si promette al bambino un piccolo regalo se quella notte lui riesce ad addormentarsi da solo o comunque con un genitore vicino, ma che durante la notte non non torna nel letto dei genitori. Può sembrare banale come cosa, però se si rinforza molto, nel senso si va a vedere col bambino il regalo da comprargli, ci si pensa e si rinforza la sera al momento in cui si fa addormentare il bambino, dice guarda che se stasera non vieni, domani andiamo a comprare quel regalino che ti piace tanto. Si fa il primo giorno una notte che dorme da solo, dalla seconda notte si fa per due notti che dorme da solo, se ne compra un altro, quindi a lungo andare, cioè in genere nel giro di una settimana, il problema viene risolto. Bisogna partire naturalmente con regalini piccoli, perché sennò no. Poi dorme il bambino e la mamma e il papà sono sul lastrico. Però mi sembra questo patteggiamento mi sembra molto interessante. Siamo qua, Andrea da Bergamo, 824 0024, benvenuto, buongiorno. Andrea. Sì, buongiorno, sì. Sono Andrea. Eccomi. Allora, come dicevo prima, io sono il papà di tre gemelli, hanno quasi tre anni adesso, sì. Sono due femminucce e un maschietto. Sì. Le due femminucce e il maschietto, fino ai 3-4 mesi di età, tutto bene, hanno dormito sempre in maniera pressoché, oserei dire, perfetta per la loro età. A un certo punto il maschietto ha preso una strada completamente diversa. Cosa gli è venuto in mente? Cosa fa? È quello che diciamo noi ogni volta, lui cerchiamo di spiegare questa cosa. Le due femminucce le mettiamo a letto la sera, chiudiamo la porta e non le sentiamo fino al mattino dopo. Due angeli. Esatto. Il maschietto non c'è verso, si deve addormentare sempre e costantemente di fianco a noi. Mm. Se si sveglia cerca, gridando ovviamente, la presenza dei genitori. Abbiamo provato di tutto, comprando un orsetto, comprando un altro animaletto, sì. L'altro oggettino. Niente. Non c'è verso. Lui comincia sempre a piangere, dice sempre che si spaventa, che ha paura, anche se, ripeto, avendo due anni e mezzo, quasi tre, sì. Non so fino a che punto lui riesca a capire se effettivamente ha paura o meno. Comunque richiama proprio la vostra attenzione, Alberto. Ma il fatto è che probabilmente io continuo a dare soprattutto consigli solo psicoeducazionali, cioè partendo dal fatto che un bambino sta bene, non ha problemi particolari di salute, che cosa ci sta dicendo con il suo comportamento notturno? Probabilmente questo proprio è un maschio con due femmine che sono riuscite a costruire un'alleanza che le rende così solide e stabili. Lui è quello in mezzo, potremmo immaginare, per cui ha bisogno, non ha ancora la sicurezza delle altre due bambine, sta con il suo comportamento in qualche modo chiedendo ai genitori comunque vicinanza, comunque quella sicurezza che le due gemelline ancora non hanno. Probabilmente per lui il percorso di nuovo deve essere, se tutto va bene sugli altri fronti, un percorso che partendo dall'orsetto, dal giocattolo eccetera, aumenta però i rituali di addormentamento nel luogo in cui volete che il bambino dorma durante la notte, cioè nella cameretta con le due sorelline, e magari proprio con la vicinanza lì del genitore. È fondamentale perché i bambini imparino a stare fuori dalla stanza di mamma e papà, che quando chiamano di notte un genitore sappia che deve fare la fatica di andare là dove il bambino lo chiama e non fare l'operazione contraria, che però poi è alla fine la più comoda, viene naturale, dalla stanchezza che il cioè bambino salti nel lettone. Andiamo a Silvio che ci chiama da Milano. Buongiorno Silvio. Sì, buongiorno. Io ho un'esperienza molto simile a quella dell'ascoltatore che mi ha preceduto, però sì. Ho solo una bambina di un anno e mezzo. Sì. Con la quale adesso... Quindi il problema, devo dire, sì, che è un po' è difficile. Diviso per tre. È diviso per tre, Silvio, vede? Ecco, che, ecco questo già si sollevi. Ecco, l'unica cosa è questa, noi ci facciamo un po' di problemi, mia moglie, su come comportarci, nel senso che anch'io ho avuto un'esperienza di sonno disturbato fino a circa 10 anni, adesso dormo benissimo. La bimba quando dorme con noi dorme bene, si vede riposata e tutto. Abbiamo un timore che forzandola a stare, perché adesso non sono ancora difficili quei discorsi di patteggiamento cui prima sì, il professore faceva riferimento, no? Esatto. Forzarla a stare nel suo lettino, magari, insomma, voglio dire, in natura penso io i cuccioli stanno con i genitori, per tanti secoli, insomma, i bimbi anche per ragioni logistiche stavano sì. con i genitori. Non vorrei che fosse più una questione egoistica nostra, per il nostro benessere. Insomma, Silvio, lei la terrebbe volentieri nel lettone. Ma no, non è che la terrebbe volentieri, però, senso, non vorrei neanche farla soffrire troppo per... Ha ragione. Chiediamo al professor Bruni rapidamente un suo giudizio su questo. Guardi, io Consiglio molto spesso co-sleeping, nel senso il dormire insieme dei, il bambino insieme ai genitori, perché spesso risolve molti problemi. Vengo spesso tacciato di essere un torturatore perché consiglio di far dormire, di lasciar piangere il bambino, mentre invece è assolutamente contrario, cioè dipende da caso a caso. In questo caso qui, se i due genitori sono d'accordo, se la bambina è più tranquilla, fatela dormire insieme nel lettone, perché per il momento non c'è problema. Gradualmente, col tempo, si deciderà, nel momento in cui si è tutti più tranquilli, di fare un patto con la bambina e spostarla gradualmente nel lettino della bambina. Ma non c'è, io non vedo nessun particolare problema di viziare un bambino, specialmente se è molto piccolo. Ecco, questo mi piace molto mammesco come giudizio, come consiglio, no? Professor Bruni, vedo che le mamme erano tutte qua, le mamme sorridevano quando lei diceva si può tenere nel lettone. Andiamo a Elena, buongiorno Elena, finalmente. Buongiorno. Hanno telefonato tanti papà, poche mamme, meno male Elena. Ci racconti, perché siamo in chiusura di trasmissione. Allora, io ho due bimbe, una di 7 e mezzo, una di 3 e mezzo, hanno sempre dormito benissimo. Sì. Io tuttora la grande la metto a fare il riposino il pomeriggio e dorme anche 2 ore molto volentieri. Sì. E continuerei io a fare questa cosa. Lo farei anch'io un bel pisolino al pomeriggio, Elena, lei non lo farebbe. Professor Bruni, pomeriggio, si dorme oppure si può lasciare il bambino a dormire tranquillo, soprattutto non se di notte dorme? Un paio d'orette. Che dà la bambina? 7 anni. 7 anni. Tranquillamente, guardi, il bisogno di sonno è assolutamente individuale. Per cui solitamente diciamo intorno ai 4-5 anni si abbandona il sonnellino pomeridiano, però se un bambino ha necessità di fare il sonnellino pomeridiano non c'è nessun problema, cioè ci sono persone anche adulte che fanno la cosiddetta siesta pomeridiana, evidentemente questa bambina ha bisogno di fare la siesta pomeridiana, insomma non vedo nessun problema al riguardo. Allora, io saluto Chiara. Ciao Chiara. Ciao. Per salutarti devo dire Chiara di Paola e Chiara. Esatto. Ecco, che in questa settimana, in occasione del concerto Amiche per l'Abruzzo, che si terrà il 21 giugno, molte amiche vengono a trovarci per ricordare questa data importante. Chiara, non posso però fare a meno di chiederti se da piccola dormivi e come andava con Paola. Avete avuto problemi di sonno o lasciavate tranquilla la vostra mamma? No, erano abbastanza tranquille. Forse proprio i primi anni io, ecco, di notte non dormivo tantissimo e gli ci voleva un po' di tempo per farmi addormentare, poi però via, poi ci riuscivo. Senti, ecco, evidentemente vi ha cantato delle buone ninna nanne, perché sia tu che Paola. Eccola Paola, ciao, benvenuta. Grazie, ciao. Senti, Chiara mi diceva che aveva un pochino problemi di sonno. Noi oggi parliamo di sonno dei bambini. Paola, invece, tu eri un angelo? Da piccolo, sì. Ma mi dicono che non creavo particolari problemi. Poi, vabbè, come tutti i bambini. Vabbè, certo, bisogna metterlo in conto. Si passa quel periodo che i genitori non dormono e che hanno le occhiaie fino alle ginocchia, ma questo... Sì, meno male che c'è il copriocchiaie. Allora, esatto. Paola e Chiara sono qui per ricordarci un appuntamento importante che sarà seguito anche da Radio 24, Amiche per l'Abruzzo. Un invito ai nostri ascoltatori. Ma io ribadisco che è molto importante esserci, non solo per i cantanti e tutti gli artisti, anzi le cantanti e tutte le artiste che hanno aderito a questo importante progetto di Laura Pausini, e alla quale siamo tutte molto grate, perché è stata veramente una grande idea. E quindi ribadisco, è importante esserci per sostenere questa regione così colpita, perché in questo momento tutta l'Italia è l'Abruzzo, tutti noi siamo abruzzesi. Chiara ed io siamo state nelle zone terremotate proprio ieri, siamo reduci dalle zone dell'Aquila intorno terremotate, siamo state a visitare le tendopoli, abbiamo guardato negli occhi queste persone che ci hanno accolto con amore infinito e con veramente un'accoglienza che non ci aspettavamo, perché pensavamo insomma di trovarli tristi e battuti, e invece hanno una grande malinconia, certo, negli occhi, che speriamo che passi presto con delle case nuove, con una nuova vita. però certamente c'è la forza e la grinta e la voglia di una popolazione intera di rialzarsi, di rimettersi in piedi. Però allora ricordiamo che ecco, infatti Amiche per l'Abruzzo, anche Mamme per l'Abruzzo lo ricorderanno anche nei loro blog. Saluto al volo le mamme che sono intervenute, il professor Bruni che ci ha aiutato, un abbraccio forte a Chiara e a Paola. Alberto, noi ci vediamo sabato, buona giornata a tutti e appuntamento domani dopo il GR delle 11. Grazie per essere restati con noi.